casa. Ora che abbiamo eretto un muro, non lo so, non lo voglio sapere. Come si sta di là? Siamo le famiglie per bene. Ora ti faccio sentire che cosa chiediamo all'assessore. Io so, sorveglia, sorveglianza. Io so, sorveglia, sorveglianza. Guarda un po' alla finestra, là c'è un brighter nell'ombra. Sfondo bianco e pulito, qua già sbombolettato. Io so, sorveglia, sorveglianza. Ci vuole so, sorveglia, sorveglianza. Guarda nel monitor, che cosa vedi? Guarda nel monitor, che cosa vedi? Tre dall'ospedale psichiatrico, tre in libertà invigilabile, tre che cosa se meriti, ne girano più morti. Dai, ripulisci le strade, ridò la loro la vita. Piazza ste telecamere, funzionano con i muri, non girano più mostri. Se le piazze di posti giusti, no, non girano più mostri. Se le piazze di posti giusti, ci vuole so, sorveglia, sorveglianza. Io so, sorveglia, sorveglianza. Ferretti al suo profeta. Telecamera al fianco, telecamera al passo. Sì, ancora. Telecamera al banco, telecamera al cesso. Sì, ancora. Telecamera al parco, telecamera in centro. Gli droni, cazzo! Ed è così, senza leggerezza, che si entra in diretta. Questa è Radio Wombat. State ascoltando da wombat.noblogs.org. Subito vi do gli indirizzi per poter interagire con me. Io sono Briccobaldo e vi terrò compagnia fino alle 21. Andando sulla pagina wombat.noblogs.org, avete ben due strumenti per interagire con noi. Li trovate nella pagina iniziale. Abbiamo per interagire durante le dirette Wombat, abbiamo un pad che io ora in questo momento sto aprendo. Ci potete scrivere, io vedrò in tempo reale quello che c'è scritto sopra. Altrimenti, altre cose che potete fare è quello di lasciarci un messaggio vocale nella messaggeria del Wombat, c'è anche lì. Anche per questo abbiamo un apposito link. Senza leggerezza iniziamo questa diretta. Perché io mi ero preparato tutto un bel discorsino, ma sicuramente è prioritaria l'uscita del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uscito fresco, giusto adesso, era stato annunciato, e se io direi di iniziare a leggerlo fin da subito, poi vi dirò qualcosa che avevo pensato, diciamo l'apertura che avevo pensato, ve la spiegherò più tardi. All'articolo 1 si legge misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure. A. Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1, che poi andremo a vedere magari, salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui l'articolo 1.7, lo sto leggendo in diretta, io ancora non ho avuto modo di darci un occhio, per le pubbliche amministrazioni, bla bla bla. Fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzo di trasporto pubblico o privato dal comune di residenza, nemmeno sì, dal comune in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute, conseguentemente l'articolo 1,1. C. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi dell'articolo A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali a assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato numero 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali a cui alla lettera E, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, della quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. E sono comunque consentite le attività che svolgono servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali, di cui alla legge del 12 giugno 1990, va bene? Resto tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei e di altri istituti, i luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, bla bla bla. F. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medici, medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. G. Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. H. Sono consentite le attività dell'industria, dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del prefetto nella provincia ove sono ubicate le attività produttive. Punto 2. Il prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei dinieghi emessi. Il presidente della regione o della provincia autonoma, il ministro dello sviluppo economico, il ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia. Punto 3 del decreto. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo non condiviso nel regolamento delle misure bla bla bla. Le imprese le cui attività sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Disposizioni finali è l'articolo 2. Le disposizioni del presente decreto produttivo producono effetti dalla data del 23 marzo 2020, cioè domani, e sono efficaci fino al 3 aprile. Le stesse si applicano cumulativamente e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo. Le disposizioni, punto 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. La firma il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Salute. Ok, vediamo se troviamo questo famoso allegato 1, eccolo qua. Ah, perfetto, benissimo, non ce l'hanno allegato, grandi, grandi, devo dire, un ottimo modo per creare confusione. Sì, eccolo qua. Allora, sono mantenute le coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, pesca e acquacultura, estrazioni di carbone, estrazioni di petrolio greggio e gas naturale, attività dei servizi di supporto all'estrazione del petrolio e del gas naturale, industria alimentare, industria delle bevande, fabbricazione di altri articoli tessili, tecnici ed industriali, fabbricazione di spago, corde, fune, reti, fabbricazione di tessuti non tessuti o di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento, confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro, fabbricazione di imballaggi in legno, bare, forse intendono, fabbricazione di carta, stampa e riproduzione di supporti registrati, fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, fabbricazione dei prodotti chimici, fabbricazione dei prodotti farmaceutici di base per preparati farmaceutici, articoli di da gomma, articoli in materiale plastico, altri prodotti della lavorazione dei minerali non metalliferi, metallurgia, fabbricazione di prodotti di metallo, fabbricazione dei computer e prodotti dell'elettronica e ottica, apparecchi elettrodomestici, fabbricazione delle apparecchiature elettriche ed apparecchiature per un domestico, per uso domestico non elettrico, fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura, macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, inclusi parti e accessori, fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie, no scusate ma a me, cioè lo sto leggendo, lo sto leggendo adesso, ma siamo sicuri di questo, di quello che ho detto? Sometimes just drifting like a country stream, precious and pure, I see you smile. Allora, provo a rileggere. Non ero sicuro perché parte di queste indicazioni mi sembrano veramente assurde e quindi sono andato a ricontrollare. Facciamolo insieme perché per non rischiare di creare confusione. All'articolo 1 si decreta che sono sospese tutte le attività produttive, industriali ed economiche ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. Giusto. Quindi quello che stavo leggendo sono tutte le attività che comunque potranno continuare ad andare avanti. Dove eravamo arrivati? Allora, fabbricazione di strumenti, fornitura... Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma. Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e cartone. Fabbricazione delle macchine per la stampa e la legatoria. Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici, strumenti di fornitura medica e diagnostica, fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario, protettivi di sicurezza, fabbricazione di casse funebri, riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, raccolta, trattamento e fornitura di acqua, gestione delle reti fognarie, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, ingegneria civile, installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione, di costruzione, manutenzione e riparazione di autoveicoli, commercio di parti e accessori di autoveicoli, per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori, commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi, commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, commercio all'ingrosso di elettrodomestici, cioè, ma stiamo scherzando? Elettronica di consumo audio e video, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione, materiale elettrico vario per uso domestico, commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, apparecchiature ICT, macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori, facciamo i trattori, commercio all'ingrosso di mezzi ed altre attrezzature da trasporto, materiale elettrico per impianti a uso industriale, strumenti e attrezzature a uso scientifico, articoli antincendio e antinfortunistici, macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e le navi e la navigazione, prodotti petroliferi e lubrificanti, di autotrazione e combustibili per il riscaldamento, legname, le semilavorati in legno e legno artificiale, trasporto terrestre, trasporto mediante condotte, trasporto marittimo per vie d'acqua, trasporto aereo, magazzinaggio, attività di supporto dei trasporti, servizi postali, attività di corriere, alberghi e strutture simili, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività legali e contabili, attività di direzione aziendale, ricerca scientifica e sviluppo. Non so, grande confusione nella mia testa. Questi qui sono ancora tutti dall'allegato 1, e cioè quelli che sono esenti dai divieti, che potranno continuare a tranquillamente ad andare avanti. Riparazione e manutenzione di apparecchiature per la comunicazione, riparazione di elettrodomestici o articoli per la casa, attività di famiglia e convivenze come datori di lavoro per personale domestico. Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari. Ci sono alcune cose che realmente io non comprendo, cioè il fatto che si debba continuare, ad esempio, a produrre lavatrici, lavastoviglie, elettrodomestici. Scrivetemi se avete dubbi, se avete da correggermi, per favore fatelo, perché mi trovo in una grossa confusione. No, veramente, veramente incredibile. Io mi dispiace, ma cioè sono veramente sbigottito da questo, proprio sbigottito. Cioè, com'è possibile questa cosa qua? È uno scandalo. Io sto leggendo i commenti che arrivano sul pad e mi dicono: non sono io a essere confuso, sono loro dei pazzi. È vero, sono dei pazzi. Questa cosa qua non è possibile. Allo stesso tempo vietano alle persone di uscire dal comune nel quale si trovano. Cioè, il che vuol dire che se io, l'esempio di una persona con la quale ho parlato poco fa, se io non ho la legna, non ho il pellet, non posso andare a prenderlo nel comune accanto, metti caso che quel comune non ha servizi, come devo fare? Cioè, stanno cercando, cosa stanno facendo? Stanno mettendo a repentaglio tutte È incredibile, non si parla più neanche di un paese, si parla di un continente. I virus attraversano le frontiere, se ne fottono almeno loro, per fortuna. Cosa stanno facendo? Va bene, scusatemi, sono rimasto veramente allibito da questo. E, cerco un attimo di riprendere il filo del discorso, di quello che volevo dire, e che a questo punto lo dirò ancora con maggior forza. La prima cosa che voglio dire è un po' uno sguardo interiore a noi, personalmente, e lo dico in base un po' alle riflessioni che mi sono trovato a fare in questi giorni e che spero, ecco, che possano essere condivisibili, e riguarda un po' tutti noi nella nostra intimità, e cioè che la situazione è sicuramente molto difficile, estremamente difficile, oserei dire. E mette alla prova noi tutti e tutte su moltissimi fronti, su tantissimi, su tutti gli aspetti della nostra vita, oserei dire, e questo, io me ne rendo conto, rende molto più difficile non solo le relazioni con il mondo che sta fuori dalle nostre case, ma mette a repentaglio anche le relazioni all'interno delle nostre case, oltre che anche la capacità di guardare dentro se stesso. E quindi la mia raccomandazione è sicuramente quella di considerare la situazione, contestualizzare tutto ciò che ci succede, ripeto, nelle relazioni interpersonali intime, e considerare che tutto quello che diciamo, tutto quello che pensiamo è estremamente alterato da quello che ci sta succedendo e dalle emotività che abbiamo. E quindi la mia raccomandazione è quello, se c'è chi dice che dobbiamo stare isolati, e probabilmente è vero, mi raccomando, non isoliamoci ulteriormente. Restiamo vicini alle persone che abbiamo intorno, restiamo vicini ai nostri cari, e ripeto, contestualizziamo tutto quello che viene detto. Cerchiamo di ricreare questa un po' di armonia, di ricreare... di mantenere pure, sincere, profonde e costruttive le relazioni che possiamo attualmente mantenere, visto che non possiamo più uscire di casa, visto che non possiamo vedere le persone a noi care molto spesso, che si trattino di parenti, di genitori, figli, fratelli, sorelle, compagni, compagne. Direi che la palla è realmente ributtata su ogni singola persona. E noi abbiamo la necessità e anche il dovere di fronteggiare questa situazione sia dentro che fuori. Scusate l'emozione, mi trema la voce. Mando un pezzo per smorzare un pochino questa tensione che mi sta un po' devastando. Eccolo. Karma Police. Karma Police. Anche se non sei abituata a sta karma. this is what you'll get when you mess with love. Va bene, mi sono fatto un tè e vediamo un attimo se riesco a riprendermi da questa grande, immensa sorpresa. Ripeto, scrivete, diteci che cosa ne pensate. Abbiamo il pad, dovete andare su pad.cisti.org/p/diretta wombat. È un pad che io ho aperto qui davanti, lo leggo in tempo reale, altrimenti potete scriverci alla posta mail postawombat@insiberia.net. Potete anche scriverci su Facebook, ma probabilmente lo guarderò poco, quindi vi raccomando pad.cisti.org/p/diretta wombat. Aspetto i vostri commenti, le vostre notizie. Ci ho incollato fra l'altro il link del PDF del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, questo ultimo uscito pochi minuti fa, e quindi lo potete leggere tutti e tutte, vi raccomando di farlo. A me sembra veramente una follia come uno Stato, un'istituzione in una situazione del genere si possa piegare assolutamente ai voleri degli industriali, perché vi sono alcune cose che sicuramente devono rimanere attive, i servizi essenziali, ma quello che ho letto prima mi sembra ben oltre i servizi essenziali, ben oltre rispetto. Questo è uno scandalo, veramente uno scandalo. Questi stanno giocando con la nostra pelle, ci stanno massacrando. Non ci sono altre parole veramente. Io direi che a questo punto cambio un minimo la scaletta e vi mando due contributi che parlano proprio di questo, parlano proprio del lavoro. Uno è il contributo raccolto grazie ai compagni e alle compagne di Radio Onda Rossa È un contributo che viene dalla provincia di Bergamo, un'intervista fatta qualche giorno fa, assolutamente ancora più che valida. L'altro invece è un contributo che ci arriva, che ho raccolto questo oggi e poco prima che uscisse il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma il sentore di questa cosa c'era già, nonostante non fosse stato letto, non fosse stato ancora messo nero su bianco. Il sentore c'era, e quindi c'è anche chi sta pensando di prendere dei provvedimenti. Si tratta dell'USB, è un sindacato di base attivo in tanti settori. E Stefano Cecchi, vabbè, intanto vi faccio sentire l'intervista del compagno bergamasco. Sempre Radio Onda Rossa, torniamo in diretta e volevamo questa mattina parlare con Bergamo. Salutiamo il compagno che sta all'ascolto, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, volevamo con te parlare di questa città, di questa zona, Bergamo, che sin dall'inizio non è stata considerata zona rossa, che oggi si trova invece a dover a stare totalmente a collasso economico e non solo economico ma sicuramente sanitario. Che cosa sta succedendo? Se ti va di farci un po' un riassunto della storia di queste ultime settimane per quanto riguarda Bergamo. Certamente, grazie. E grazie anche per questa opportunità di fare anche una comunicazione, una rappresentazione di quello che stiamo vivendo in maniera estremamente drammatica. La città in questo momento è la provincia più colpita da Covid-19, e qua è realmente una situazione drammatica. Vi do giusto qualche piccolo flash per farvi capire la drammaticità della situazione. Il numero di morti nella provincia è superiore ormai alle 200 vittime, e lì addirittura c'è stata una conferenza stampa dell'assessore del comune di Bergamo ai servizi demografici, che ha annunciato che vengono utilizzate delle camere mortuarie straordinarie. Ne sono state aperte già tre, perché non sanno più dove mettere i cadaveri e il forno crematorio non regge il ritmo, e quindi ci sono i cadaveri in coda. Giusto per farvi capire esattamente com'è la situazione, da due venerdì fa il sistema sanitario è iniziato ad essere full, per cui non più in grado di curare tutti adeguatamente. Questo significa che rianimatori e anestesisti devono operare delle scelte prima di tutto. Quindi non era una fake news, anche se poi viene pompata, ovviamente raccontata in maniera anche distorta, che comunque i respiratori non ci sono sempre per tutti. E questo significa anche assumere delle scelte laceranti per chi lavora nel sistema sanitario. Noi questo lo viviamo direttamente, riguarda amici, parenti. Il contagio è ben superiore a quello che raccontano. Noi non possiamo fare tamponi, non vengono fatti nemmeno alle persone che vengono ricoverate con la polmonite interstiziale, che è esattamente la cosa che succede a seguito di Covid-19. Ci sono testimonianze, anche molte testimonianze di medici bergamaschi. Se cercate sui social, scrivono tantissimo i medici bergamaschi, che sono in prima linea in questo momento. Un messaggio molto chiaro è che, e io ci tengo a darlo perché è importante che tutti lo sappiano, si muore di Covid-19. Gli over 50 muoiono di Covid-19. Sono soprattutto gli anziani, i più anziani, ma è pericoloso e veramente molto debilitante anche per i giovani, che lo riescono a superare senza particolari problemi nella maggior parte dei casi. Cos'è successo a Bergamo? A Bergamo è successo che uno dei tre focolai era nella provincia, ovvero sia c'era il focolaio di Lodi, come tutti sapete, che è stato il primo, c'era il focolaio in Veneto e c'era un terzo focolaio, che era quello di Bergamo. Il focolaio di Bergamo è l'unico che non è stato controllato e sottoposto a misure. Un'ipotesi che secondo me è più che accreditabile, per me è un nodo della questione, è che la bassa valseriana, quindi la zona che era incriminata tra virgolette, la zona dove si poteva circoscrivere in maniera estremamente limitata il virus tra Nembro e Alzano, che sono due paesi in questo momento bersagliati, cioè in guerra, cioè sono tutti ammalati in quei paesi, queste sono le notizie che arrivano col passaparola, sono tutti chiusi in casa veramente, e cioè purtroppo quella terra ha una centralità, purtroppo per sua fortuna, tra virgolette, ha una centralità produttiva nel nostro sistema industriale. Ci sono dei nomi grossi che conoscono tutti, ne faccio uno, Polini Motori per esempio, no? L'automotive, stiamo parlando del motore industriale ed economico delle economie occidentali. Fermare la bassa valseriana significa anche rallentare l'economia tedesca. Quindi c'è anche un discorso di integrazione europea che vale solo ed esclusivamente quando si parla di economia e di denaro, di pochi. Non si è voluto fermare, si parla anche di aziende come la Persico, e le voci che circolano è che la Persico, che per farvi capire è quella che fa Luna Rossa per chi segue ed è appassionato di regate, sì, di vela, si dice che ci fosse una grossa commessa proprio in queste settimane per la consegna di Luna Rossa, e poi si dice di 80 persone, operai della Persico a casa ammalati 10 giorni fa. Queste sono le voci che circolano, poi sicuramente magari dopo parlerà chi è più informato di me, vi può dare informazioni più circostanziate. Tuttavia stiamo parlando di un indotto di 370 aziende che sono uno dei motori economici del paese. Ora, noi stiamo pagando, perché io ho cominciato l'intervento in maniera drammatica, drammatizzando il tema, perché primo ritengo che non debba essere più sottovalutato il Covid-19, che hanno continuato a dirci fino ad oggi di non preoccuparci, che qua ci stiamo preoccupando, anzi qua si muore, qua si sta male. Qua ci si autocura, perché è un tema che non ho toccato prima, non abbiamo più il diritto alla salute, è sospeso in questo momento, non c'è più la possibilità, quindi qui la gente che è ammalata di Covid-19, a cui viene la polmonite interstiziale e fatica a respirare, se ne sta a casa e si cura da sola, oppure la curano le persone che vivono con lei o con lui, ammalandosi a loro volta. Queste sono le cose che succedono, non abbiamo più diritto alla diagnosi perché noi il tampone non lo possiamo fare, non sappiamo nemmeno che cosa abbiamo e ci dobbiamo curare da soli, e non per colpa del sistema sanitario, ovvero sia dei lavoratori e delle lavoratrici che si stanno massacrando negli ospedali. Molti medici dormono direttamente dentro gli ospedali, non tornano più a casa, c'è praticamente la quantità di medici e di personale sanitario malato equivale, se non supera, quello che attualmente sono il numero di quelli che attualmente sono rimasti sani, e continuano tutti a lavorare comunque. Comunque questo è per dire che cosa? Per dire che noi stiamo pagando questo prezzo in nome dell'economia. E quindi per me è molto importante comunicare, da un lato, come dicevo, cioè che cosa è Covid-19, come non lo stanno raccontando, e secondo, qual è il prezzo che stiamo pagando e la sottovalutazione che stiamo pagando in nome dell'economia e della crescita economica e della performatività economica del territorio. E questo qua per me è un tema assolutamente centrale, per cui centrale è stata la mobilitazione spontanea degli operai e delle operaie, che qua a Bergamo un po' ovunque si sono mobilitate, per fermare la produzione. Perché il tema è esattamente che questa malattia va presa sul serio, e che quindi va presa sul serio il diritto alla salute e l'esposizione gravissima a cui sono sottoposti i lavoratori, che non possono abbandonare il posto di lavoro in nome della produzione. Se andate a vedere il protocollo che è stato firmato da Confindustria con i sindacati, che è indegno, non c'è niente di tutela dei lavoratori. Però per esempio, vi faccio un esempio, andate a rivedervelo, se scaricatevelo, per esempio si dice che se possibile, che a casa mia non vuol dire assolutamente niente, se possibile chi si occupa di carico e scarico, chi porta per esempio gli autisti, i materiali o li raccoglie, se possibile non deve entrare nei reparti. Però se possibile a casa mia vuol dire assolutamente niente, però non deve entrare per nessun motivo negli uffici e negli spazi del management. Ora, non è che voglio dire che tutti i colletti bianchi, ci sono anche gli impiegati semplici, ci mancherebbe, però come dire, la tutela per chi sta ai piani più alti c'è, e come, che può persino lavorare da casa, mentre invece nelle aziende la mia sensazione è che ai lavoratori manco la mascherina si dà. Io volevo dire una cosa, ieri mattina io ho seguito il vostro microfono aperto e qualcuno diceva, per quanto io condividessi pressoché tutto l'intervento, qualcuno diceva che era profondamente ingiusto e anche allarmante che si provasse la febbre all'ingresso agli operai, a parte il fatto che praticamente anche in questo caso nel protocollo c'è scritto che si può applicare una misura di quel tipo e che quindi non verrà fatta. Ma qua stiamo veramente parlando della tutela di persone che sono mandate allo sbaraglio, perché pensiamo davvero che gli operai sono tutti ragazzi giovani o ragazzini, è gente che è esposta ed è a rischio. Io dico un'ultima cosa perché so di essermi allungato tantissimo. Scusami un attimo, no, nel senso che appunto a lavorare ci vanno anche persone tendenzialmente anche anziane, però comunque con l'età più alta, che è più pericoloso, a cui viene insomma il coronavirus, il Covid-19, dà più pericolosità, insomma, ovviamente. Esattamente, esattamente. E tra l'altro su questo aggiungo un'altra cosa che mi stava sfuggendo, che è la seguente. È proprio in questo momento che dobbiamo andare a vedere chi sta facendo funzionare la nostra società. Cioè quali sono le funzioni essenziali, chi è costretto a continuare a lavorare per tutti con la mascherina e a rischio della sua salute. Guardiamo quei lavoratori che sono i postini che ci arrivano alla mattina, che è il personale medico che sta negli ospedali, che è tutto il personale per esempio della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti urbani, che deve andare per le strade a sanificarle e via discorrendo. Andiamo a vedere chi sono i giardinieri comunali che devono tagliare l'erba per forza, perché non può diventare una giungla la città, anche se è bloccata. Roma non c'è, non ti preoccupare, ma senza arrivare, per esempio, no, nel senso che tutti, ci sono tutta una serie di categorie legate al lavoro che in questi giorni stanno lavorando, di cui si parla molto poco, si parla sempre ovviamente, no, nel senso degli infermieri, ovviamente l'ospedale del mondo medico-sanitario, ci mancherebbe, però per esempio i lavori stradali, le faccio un esempio, sono ancora tuttora, vedi la gente che lavora per strada, esatto, sospendere i lavori stradali, no? Stanno proseguendo, faccio un esempio su Roma, i lavori alla galleria, quella verso Roma Nord, sono tutto Giovanni XXIII, sono tuttora in corso. Non sappiamo con quali misure di sicurezza, perché poi magari le persone più esposte, ovviamente nei supermercati ora è facile, hanno tutte le mascherine, no? E il personale a vista, ma quello che sta nei magazzini, ma quello che sta appunto, come raccontavi, nelle fabbriche, siamo sicuri, perché quindi anche negli ospedali hanno, il personale medico ha ricevuto ancora all'ospedale le mascherine. Nel frattempo di questo virus se ne parla già da qualche settimana, anche intervenendo ora già siamo in ritardo di qualche settimana oltretutto. Verissimo, verissimo, e io di quello che dico è, ricordiamoci di tutto quello che sta succedendo in questo periodo, perché dopo dovremo presentare il conto di tutta una serie di cose. E da questo punto di vista concludo dicendo, volevo sfatare due falsi miti che riguardano il mio territorio, ma riguardano tutti noi. Il primo mito è che da anni, almeno da due decenni se non tre, ci stanno raccontando, cioè la narrazione, tra virgolette, del paese post-industriale, del paese industriale in declino, ci ha raccontato un paese nel quale, un'economia nella quale praticamente le imprese, le fabbriche, cioè se rimangono stanno facendo nella peggiore delle ipotesi, cioè nella migliore delle ipotesi uno sforzo, nella peggiore un regalo alle persone perché rimangono in questo paese. Oggi invece Covid-19, la reazione di Confindustria, il sacrificio di vite umane, la disinformazione e cioè la totale sudditanza a Confindustria del governo ci fa capire l'assoluta e quanto si sono spaventati con gli scioperi spontanei, apro e chiudo parentesi, ci fa capire in realtà quanto è centrale l'industria ancora nel paese e quindi nell'economia del paese, nella creazione di ricchezza del paese, sempre più per meno persone che per i più. E quindi anche l'enorme potere che hanno in mano gli operai. Non è vero che i lavoratori sono ormai spogliati dello sciopero perché lo sciopero è inefficace, non è vero, fa paura l'idea che l'economia si possa bloccare, fa paura tantissimo, fa paura. Abbiamo uno strumento molto forte dove le industrie non sono in declino, non stanno sparendo, e lo dico perché parlo proprio della bassa valseriana, queste sono industrie, la piccola media impresa, questo tipo di sistema industriale non se ne può andare in Romania, non se ne può andare in Bulgaria, vivono del territorio in cui sono inseriti, e quindi c'è una creazione di ricchezza che è squisitamente collettiva. Non devo insegnare niente a nessuno su questo, sapete perfettamente di cosa sto parlando e anche quali sono i riferimenti teorici, penso che condividiamo. Il secondo falso mito che vorrei sfatare riguarda invece lo smog, perché noi si muore in questo territorio di smog da anni, da troppo tempo ormai si muore di smog e si continua a morire di smog, e i numeri sono importanti perché complicazioni respiratorie, patologie legate alla compromissione del sistema respiratorio sono la principale causa di morte nel nord Italia e nella Lombardia. La Lombardia è una delle regioni più inquinate d'Europa e una delle più inquinate al mondo, per ragioni ancora una volta di carattere industriale e produttivo. Ora, quello che voglio dire è che noi non è la prima volta che ci dicono che dobbiamo stare a casa, perché nello stesso periodo era successo anche l'anno scorso e 2 anni fa, a memoria mia personale, che a un certo punto ci dicevano non uscite più di casa perché l'aria non è respirabile ed è da un punto di vista sanitario altamente pericoloso uscire di casa per motivi di inquinamento. Ora, quello che voglio dire è, e chiudo qua, scusate per tutto il tempo che ho preso, quello che voglio dire è lunedì, martedì, mercoledì, tra mercoledì e giovedì l'aria era già pulita. Allora, quello che mi viene da dire, ci stanno raccontando da anni, che il blocco del traffico non serve a niente, rallentare, bloccare non serve a niente, soltanto a perdere soldi, che ci vorrebbe ben altro, che il blocco del traffico non funziona, che rallentare la società, tra virgolette, no? E i meccanismi e la mobilità urbana non funziona a niente. Ma è qui, senza quasi neanche che piovesse, in 3 giorni si è pulita l'aria della pianura padana. Sapete che cosa significa? Significa che basterebbe rallentare anche soltanto poco, senza fermare tutto, per ridurre i livelli di inquinamento quando diventano pericolosi per la salute pubblica. E queste persone, cioè chi ci governa, la nostra classe dirigente, che ci ha raccontato un sacco di balle su queste cose, perché per esempio il sindaco Gori non può non saperlo. No, io sì. Sento. Aspetta. Mi sentite? Pronto? Pronto, vai, vai. Ah, ok. E dicevo, cioè il sindaco Gori, per esempio, è lo stesso che non fa più blocchi del traffico quando l'inquinamento è alle stelle, perché dice che era, perché ci diceva che era completamente inutile, ed è lo stesso che 2 settimane fa, esattamente come il segretario del PD faceva l'aperitivo a Milano, invitava tutti ad uscire di casa e andare a fare le pizzate collettive persino infrasettimanali, no? E adesso non si può toccare più perché ci sono gli appelli all'unità, e vi lascio dire, quando sarà finita questa emergenza sanitaria, che tipo di appelli all'unità subiremo. Questo per dire che cosa? Per dire che queste persone lo sapevano benissimo, e noi dobbiamo avere buona memoria quando finisce tutto questo, di quello che è successo nel mentre e della lezione che abbiamo imparato, anche rispetto allo smog questa volta. Bloccare la città, rallentare, mettere in discussione i profitti di pochi, ok? Significa salvare vite umane e guadagnare in qualità della vita per tutti, e la salute pubblica innanzitutto. Se posso dire solo un'ultima cosa, ma sì, proprio a flash, vi dico questa cosa qua. Non, cioè, io credo che rispondere al blocco si possa, e qua a Bergamo, io non ho fatto menzione di questo, ma è corretto farla in finale, c'è tanta gente che si sta attivando, c'è per esempio il Circolo Maite, che sono diciamo un circuito di compagni e di compagne che da diversi anni hanno un circolo e fanno attività, in 70 svolgono attività per gli anziani, portano la spesa, provvedono a qualunque problema, mettono a repentaglio la loro salute spontaneamente per costruire reti di solidarietà. Quello che voglio dire, e in più si comunica tantissimo attraverso i social e WhatsApp, tutti certo, sanno tutto, tutti si sentono in contatto, questo per dire che si può rompere l'isolamento, si deve rompere l'isolamento, perché le persone rimangono da sole in questa situazione, e lo si può fare ancora una volta nel sociale, dal sociale. Ci tenevo a dire quest'ultima cosa, vi ringrazio nuovamente. comes now, now. Is she ever comes now? Spero sia stato chiaro per tutti e tutte, per me lo è stato molto il compagno di Bergamo. La soluzione è bloccare assolutamente la produzione, quella non essenziale, il che vuol dire che le lavatrici e le lavastoviglie chi cazzo se ne frega, decisamente chi cazzo se ne frega, bisogna fermare tutto, non si può continuare a lavorare, a stare così vicini e a ampliare i contagi. È vero, i dati di oggi sono in calo, ma se guardiamo il trend degli ultimi giorni è stata un'assoluta impennata. Quello che posso dire a tutti e tutte è invitare tutti e tutte, non solo quello di restare a casa, ma chi sta andando a lavorare, di scioperare. È stato indetto da USB uno sciopero per mercoledì 25 via una piattaforma che probabilmente verrà rifiutata, ma questo ce lo facciamo dire direttamente da Stefano Cecchi dell'USB, intervistato giusto un paio di ore fa. Immagino siano giorni di grande lavoro, di grande fermento, e noi siamo qui appunto a chiedere qual è stata la situazione lavorativa nelle ultime due settimane nei vari settori, ma in particolare nel settore della sanità e nel settore privato. Ma come sai è stato un periodo estremamente, estremamente complicato, perché la situazione è quella che conosciamo, la situazione generale, no? L'espansione di virus e di coronavirus, eccetera, no? La situazione del mondo del lavoro è stata molto complessa, anche perché è stata presa sotto gamba sin dall'inizio, no? Nonostante che alcune iniziative potevano essere prese sin dal primo decreto fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si è voluto in questo caso sempre dar voce soltanto a Confindustria e non bloccare tutte le attività. Questo ha generato un casino immane, infatti tantissimi lavoratori sono rimasti contagiati su tutti i posti di lavoro, anche perché sono mancati sin dall'inizio tutti i dispositivi di protezione individuale che dovevano essere assegnati ai lavoratori. I settori più colpiti, la sanità merita un discorso a parte, lo faccio dopo, i settori più colpiti normalmente sono stati i settori della produzione industriale e i settori di commercio, dove si è scelto di tenere tutto aperto anche produzioni inutili e che non servono e non sono indispensabili, e quindi c'è stato una serie di grossi problemi e tantissimi lavoratori si sono rivolti alle organizzazioni sindacali. In questo contesto poi è venuto il 14 di marzo quel famoso accordo tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria sulle norme di sicurezza, un accordo falso che non è servito a niente. Infatti sono continuati, in questi giorni sono stati molti scioperi spontanei anche in varie aziende, anche qui in Toscana da noi, lo sciopero a Firenze per esempio, lo sciopero degli addetti all'assistenza domiciliare che erano sprovvisti di provvedimenti, di dispositivi di protezione individuale, hanno fatto due giorni di sciopero, poi è intervenuta la commissione di garanzia che prendendo per buone le dichiarazioni dell'azienda, questi sono lavoratori in appalto del comune, e ci hanno imposto di revocare lo sciopero. Ma ci sono state iniziative di sciopero anche nel commercio e in altre aziende tipo la Piaggio e tipo altre aziende qui a Firenze. Per quanto riguarda la sanità il problema è molto più complesso, no? Sono stati i primi soggetti, i primi lavoratori che sono a diretto contatto con il virus. Noi come USB abbiamo fatto un esposto a livello nazionale a tutte le procure della Repubblica, perché secondo noi non viene data ai lavoratori tutti i dispositivi necessari che servono in queste condizioni. La situazione fino ad oggi non è migliorata, anche perché anche il decreto di ieri è ancora molto, molto incerto, cioè il decreto di ieri ancora non c'è, ci sono pronunciamenti che ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma il decreto non abbiamo ancora avuto il piacere di leggerlo. In questo contesto USB ha proclamato, è ancora in essere perché ancora non si è detto quello che è scritto, questo sciopero per il 25 di marzo, dove ci invita a chiudere tutte le fabbriche e gli uffici, perché la cosa più importante è la salute, prima viene la salute e la sicurezza, poi viene tutto il resto. Ecco, nello specifico quali sono i punti dell'accordo del 14 marzo dei sindacati confederali che sono in contrasto con la tutela del diritto alla salute? I punti, è un accordo pro Confindustria, come dicevo prima, in tutti gli incontri che ci sono stati ha sempre vinto Confindustria, no? Perché ha imposto che per tutelare il profitto bisogna mandare le persone, i lavoratori, gli operai, gli impiegati, a lavorare nonostante non ci siano i requisiti necessari di sicurezza. Anche perché quell'accordo che hanno fatto se ne sono resi conto anche dopo 4-5 giorni anche con Federale, che è un accordo che non serviva a niente, che non dava tutela e non dava garanzie. Come si fa in una struttura industriale di produzione a garantire innanzitutto la distanza di un metro da un lavoratore all'altro? Non esiste. Non ci sono gli strumenti, perché poi non sono stati dati gli strumenti, non sono stati dati dispositivi di protezione individuale, eccetera. Cioè, quindi la condizione di insicurezza totale che ci ha portato anche, sospinto anche dei lavoratori a proclamare questo sciopero, che poi alla fine è anche uno sciopero diciamo così simbolico, dove si dice che prima di tutto viene la salute, viene la sicurezza e poi viene tutto il resto. Ora vedremo quello che uscirà nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quali sono secondo loro le produzioni che sono indifferibili e che bisogna continuare a fare. È logico, la produzione alimentare indubbiamente va continuata a fare, la produzione dei farmaci va continuata a fare, ma tante altre cose, tipo quelli della logistica e le condizioni in cui lavorano, eccetera. Queste sono cose fondamentali che vanno tutelate, perché il tema della sicurezza è un tema importante. Lo è importante tutto l'anno, non solo quando c'è il coronavirus, è importante tutto l'anno perché 1300 lavoratori muoiono ogni anno sugli incidenti di lavoro. In queste condizioni la situazione è ancora peggio. Siamo in una situazione d'emergenza e il problema è che l'emergenza la devono pagare sempre gli stessi. Io il problema va molto oltre e non lo voglio fare a lunga. Oggi siamo in emergenza sociale. Ah, scusami. No, prego, dimmi. prego. Il discorso è molto più ampio, no? Oggi siamo in emergenza sanitaria e dobbiamo sconfiggere la bestia che gira, no? Domani, appena finisce l'emergenza sanitaria, saremo in emergenza sociale. Noi bisogna garantire a tutti i lavoratori che hanno sospeso la produzione, che sospendono la produzione. Ci sono centinaia di tipologie di lavoratori in questo paese, no? Bisogna garantire la garanzia di reddito e di entrare successivamente a lavorare, perché è scusami. Sì, no, appunto, proprio sulla questione del dopo anche, state preparando un piano per fronteggiare l'emergenza sociale che succederà all'emergenza sanitaria? Certo, noi allora ci stiamo organizzando anche perché è venuta per stetta, no? Ora stiamo dando delle risposte ai lavoratori che hanno già avuto il lavoro sospeso. Per esempio, prendi nella nostra città, Firenze, una città che lavora di turismo, di terziario, eccetera, dove ci sono a casa decine di migliaia di lavoratori a Firenze. Decine di migliaia di lavoratori. La prima cosa è organizzare una risposta rispetto a questo nel diritto al reddito. Anche perché il problema della cassa integrazione speciale, della FIS e compagnia bella, è una cosa che garantisce una parte di reddito, non garantisce il reddito integrale, perché sono dei parametri che sono fissati, si guadagni fino a una certa cifra, più di 900 euro ti danno 900 euro al mese, si guadagni un po' di più, ti danno fino a un massimo di 1200 euro al mese. Il problema che si apre successivamente è un problema che secondo me è così, non sarà più uguale a prima. Tutto quello che è successo ci porterà in una situazione sociale che nulla sarà più uguale a prima e che quindi i lavoratori devono prendere coscienza di questo e ci sarà bisogno di una forte organizzazione anche antagonista che metta in piedi tutte le forze che ci sono per rivendicare il diritto al reddito, che poi invochiamo il reddito di quarantena, il reddito di cittadinanza, comunque vogliono che comunque ci sia una garanzia di reddito, perché la ricaduta sociale di questa cosa lì sarà enorme. Ora magari questo mese si vede meno perché le sospensioni del lavoro sono state meno, ma dai mesi d'aprile saranno molto, molto, molto, molto pesanti, anche perché questa pandemia, se è una pandemia, va avanti ancora per tempo e a pagare. Poi come succede da tutte le crisi, i lavoratori pagano e qualcuno ci si arricchisce. Ecco, questa situazione da parte dei sindacati di base è valutata diciamo come viene valutata nell'ottica di una mobilitazione dal basso, di una mobilitazione delle basi, dei lavoratori? C'è bisogno di ricostruire questo. Ormai siamo certi di una cosa, i tre sindacati istituzionali non rappresentano più l'interesse dei lavoratori, e in questo momento l'hanno dimostrato, sono più vicini al Confindustria che vicini ai bisogni dei lavoratori. Occorre ricostruire in questo paese un soggetto sindacale alternativo che faccia il sindacato come deve fare e che rappresenti gli interessi dei lavoratori e dei bisogni che scaturiscano i lavoratori, maggiormente quando saremo nella fase del dopo. Quindi questa di per sé può essere anche un'occasione per i sindacati per ricreare qualcosa? Certo, secondo me sarà anche l'occasione. Ora, questa sarà una situazione, perché è un'occasione per ricostruire. E poi si paga e si sconta sempre la mancanza di un'organizzazione politica di un certo tipo in questo paese che dia le risposte ai bisogni di blocco sociale che noi si vuole rappresentare, cioè dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati, dei pensionati, dei senza casa e compagnia bella. E invece riguardo, dicevamo, alla chiusura di tante imprese provvisoria, lasciando esclusivamente aperte quelle essenziali, ci sarebbe bisogno e sarebbe possibile, a parere vostro, una riconversione di alcune industrie per soddisfare il fabbisogno emergenziale di alcuni presidi? Penso di sì, ci sarebbe riconvertire tante aziende, ci sono aziende che vengono sempre che producono le armi ancora, che bisogno, cioè a parte produrre le armi non ce n'è mai bisogno, ma in questa fase ancora di più, no? Perché poi in questa fase noi, ora passo di fare un flash, si scontra il problema che negli ultimi 30 anni in questo paese si sono tagliati 38 miliardi di spese per la sanità, si è arricchita la sanità privata e al dato di ci sono tagliati 70.000 posti letto, e oggi l'emergenza che c'è, se non si fosse tagliata la sanità come è stata tagliata, probabilmente non sarebbe a questo, perché insomma è un virus, il coronavirus eccetera, ma non è mica un'epidemia di peste o di qualche altra malattia. Quindi si sconta la mancanza di terapie intensive, perché sono state smantellate. In Lombardia, dove c'è stato il picco più grosso, è la regione dove c'è stata la massima privatizzazione della sanità. La sanità privata si muove soltanto per i propri interessi, non per gli interessi della collettività. Quindi c'è un bisogno di un ragionamento, di un ripensamento generale dello Stato sociale in questo paese, e soprattutto c'è bisogno di un intervento dello Stato. Oggi il capo di Confindustria dice sì, lo Stato deve intervenire, ma non bisogna fare un'altra IRI. Noi pensiamo che bisogna fare un'altra IRI, perché bisogna ridare gambe all'industria di questo paese con il controllo dello Stato. Ecco, uno dei temi che viene dibattuto in questi giorni e che è strettamente legato anche alla questione dell'industria e del lavoro è il fatto che le città italiane, ma in primis si può dire Firenze, stanno tornando a dei livelli di inquinamento di gran lunga minore, nella sorpresa e nella gioia degli amministratori. Quindi voi come la valutate questa posizione della politica, dei politici tendenzialmente, e come pensate che si possa lavorare su questo fronte? Il problema dell'ambiente in generale, no? Il problema dell'ambiente in generale è un problema che è centrale, no? Perché difendere l'ambiente dipende la qualità della vita. In questi giorni si sente, meno male si sente poco invece i politici parlare, questo è importante, perché sono andati tutti un po' in seconda fila, perché non sanno che dire, dovrebbero fare mia colpa delle scelte che hanno fatto negli ultimi 30 anni. Però il problema di coniugare, no? La produzione industriale con il rispetto all'ambiente è un problema fondamentale che non si può dimenticare. Non si può vivere distruggendo il mondo. Noi siamo una parte del mondo, una parte di questa cosa lì, e non si può distruggere, come si direbbe, l'ambiente. Bisogna riconvertire quello che è riconvertibile a un modo di produzione diversa, e poi bisogna pensare anche a un modo di consumo diverso, perché noi si consuma troppo, si consuma male, e quindi si fa dei grandi danni alla terra. Infatti la produzione ogni anno si accorcia sempre più la possibilità di, cioè si consuma sempre più in meno tempo quello che la terra produce. Ecco, un'ultima cosa, se hai da fare un appello alle ascoltatrici e agli ascoltatori, soprattutto in merito allo sciopero generale di mercoledì o comunque ai prossimi giorni, lo spazio è disponibile. Sì, no, l'appello da fare è questo, no? Anche in questa condizione si stanno riducendo anche gli spazi di democrazia, no? quello che circola sui mezzi di informazione è quello che vuole il potere. Bisogna sempre stare attenti in campana e non perdere mai contatti, non perdere mai contatti fra di noi. Il 25 è uno sciopero simbolico che probabilmente non ci faranno nemmeno fare, anche perché la Commissione Garanzia ce lo boccerà, come ci ha bocciato lo sciopero dell'8 di marzo che c'era all'inizio della pandemia. Comunque quello che si può dire ai lavoratori è di stare sempre in campana, pronti a mobilitarsi su tutte le cose che succedono. Oggi ci si può nemmeno mobilitare, perché si dice in piazza ci arrestano anche, perché con il restringimento di spazio e la democrazia legata a queste. Noi bisogna stare estremamente attenti, continuare a mantenere contatto con gli strumenti che ci sono e prepararci a dare una grossa risposta al momento in cui finirà l'emergenza sanitaria e si passerà all'emergenza sociale. Ecco, ora l'hai citato, quindi mi permetto di fare un'ultimissima domanda. Stavi dicendo proprio questo restringimento degli spazi alla democrazia che a mio parere si vedono dal fatto che c'è un annullamento degli spazi di dibattito e di discussione su qualsiasi tema, e il che vuol dire che tutte le parti politiche in campo hanno un'unica voce e che quello che passa è che sia impossibile da mettere in discussione. Secondo voi è così? È molto difficile metterlo in discussione perché questo restringimento di spazio. Il fatto solo, ora è vero che ci deve stare in casa, ci deve essere la propagazione del virus, ci mancherebbe altro, no? Ma il fatto che la gente si può incontrare a pochi spazi su cui confrontarsi riduce ulteriormente. Tra l'altro spesso vengono anche presentate le notizie in modo troppo catastrofista, no? E dovrebbero essere raccontate meno. Questo induce molto la gente a andare fuori di testa, no? Un esempio sono le 1000 persone in coda per fare la spesa al supermercato, no? Come se nemmeno si fosse in guerra. È vero che si vive una fase della storia del paese forse che nemmeno in tempo di guerra si è vissuta, perché almeno mi racconta la mia zia, che ha 95 anni e che ha passato la guerra e che è sana e vive da ciò, dice io nemmeno in tempo di guerra vedevo delle situazioni in questo modo qui, perché in tempo di guerra quando c'era bombardamenti si scappava nei rifugi, ma poi la vita, né bene né male, nella miseria eccetera, continuava perché si continuava a fare le nostre cose. Oggi siamo posti in una condizione per cui le nostre cose non si fanno, perché al massimo sulla terrazza chi ce l'ha, o se no si sta alla finestra. Ecco, ad esempio parte dei lavori che attualmente vengono svolti dalle persone, dai civili, mettiamola così, potrebbero essere, mi riferisco per dire alla distribuzione dei viveri e forse anche ad altre cose, potrebbero essere invece svolte da organismi istituzionali come potrebbero essere le forze dell'ordine oppure la protezione civile? Penso di sì, però circola un'altra cosa, no? E questo ne parlava stamattina alla televisione un esponente di Confindustria che si occupa della logistica. Diceva che bisogna mettere in condizione la logistica che non venga interrotta. Questo è grave, diceva, perché nei poli della logistica ci sono troppe iniziative di lavoratori che bloccano i servizi, non si può permettere questo. Io non vorrei che succedesse una cosa al contrario, una militarizzazione di alcuni strumenti di produzione e di distribuzione. Però non voglio estremizzare la cosa, però il concetto che diceva questa persona stamattina in televisione andava in quest'ordine qua. Tra l'altro si sa che hanno richiesto in alcuni posti, soprattutto a Piacenza e dintorni, dove c'è il grosso della logistica, no? Hanno chiesto a prefetti di intervenire perché non ci siano iniziative di lotta da parte dei lavoratori. I know, a dirty word. has always been and always will until the what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find a well, whatever, never mind. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrow. Children of the word hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched. When we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned feet, sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy-eyed, hallucinating. Rientriamo in diretta dopo aver sentito Stefano Cecchi di USB e il compagno Bergamasco. Veramente due ottimi contributi, non possiamo fare altro che è sentirci d'accordo con quanto espresso sia dall'uno che dall'altro. Stiamo in verità, noi non lo stiamo facendo, ma c'è chi lo sta prendendo molto sotto gamba questa questione, con scherzando, giocando con la vita di, con la vita, si parla di vita di tutti noi e tutte noi. Ma bando alle ciance, che ciance non sono, il mio schemino mentale che è cambiato durante l'arco di questa diretta mi vedeva alcuni punti per fare un po' di ordine, e cioè stiamo parlando di coronavirus da ormai quasi un mese. Allora andiamo un po' a chiarificare alcuni punti che io ritengo sostanziali. In primis, cos'è questo virus, da dove arriva? Quello, una lettura che io vi consiglio è un articolo. Si tratta di un articolo uscito il 12 marzo, postato il 12 marzo da Il Pungolo Rosso. In verità è un articolo scritto da un gruppo cinese che si chiama Chuang, impegnato in un lavoro di comprensione critica della situazione cinese per tutti coloro che, come scrivono, vogliono rompere i confini del macello chiamato capitalismo. La traduzione e poi la pubblicazione è a cura della redazione del Cuneo Rosso, e si tratta, vi leggo qualche passaggio. Sì, il primo capitolo è La fornace Wuhan. Wuhan, va bene, Wuhan è conosciuta vulgarmente come una delle quattro fornaci, le quattro città industriali della Cina, per la detta fornace, per la sua opprimente estate calda e umida, condivisa con Chongqing, Nanchino e alternativamente Nanchang e Changsha. Molto trafficate, con una lunga storia, situata lungo la prossimità della valle del fiume Yangtze, delle quattro, Wuhan è anche letteralmente ricoperta di fornaci. Praticamente l'enorme agglomerato urbano costituisce una sorta di nucleo produttivo per l'acciaio, il cemento e altre industrie legate all'edilizia della Cina. Questa è la città dal quale è uscito il virus Covid-12, e praticamente è una città anche abbastanza ribelle. Negli ultimi 5 anni ha provocato numerosi scioperi e proteste. La città è sostanzialmente la capitale cinese della produzione e dell'edilizia, per l'edilizia, che ha un ruolo particolarmente importante, successivo alla cosa. Adesso questa fornace, che dopo la crisi del 2008 è stata il motore dell'economia cinese, sembra che si stia raffreddando proprio come le fornaci della sua fonderia di ferro acciaio, anche se questo processo era già iniziato, non è più una semplice metafora economica, poiché la città, un tempo così movimentata, è stata isolata per oltre un mese, con le sue strade svuotate da un ordine del governo. Il più grande contributo che potete dare è di non riunirvi e non provocare caos. Questo che si legge sulle prime pagine del Guangming Daily, un quotidiano gestito dal Dipartimento di Propaganda del Partito Comunista Cinese. Adesso i nuovi ampi viali di Wuhan e gli scintillanti edifici in acciaio e vetro che li contornano sono tutti freddi e vuoti, mentre, quindi specifichiamo, sono state chiuse tutte le fabbriche, punto, capodanno, non capodanno cinese, punto, chiuse. Quindi lo scoppio del coronavirus, recentemente SARS-CoV-2, della malattia Covid-19, ha ucciso più di 2000 persone, più del suo predecessore, l'epidemia della SARS del 2003. L'intero paese è bloccato, come durante la SARS, le scuole sono chiuse, le persone sono confinate nelle loro case, in tutto il paese. Quasi tutte le attività economiche si sono fermate il 25 gennaio per le vacanze e bla bla bla. A torto l'epidemia è stata incolpata di tutto, della fuoriuscita del ceppo di virus dall'Istituto di Virologia di Wuhan, così come altre fake news che arrivarono soprattutto tramite messaggi paranoici postati su Facebook da Hong Kong e Taiwan. C'è chi dice che c'era l'influenza dell'Occidente e via discorrendo. Il mercato umido è stato criminalizzato, semi-illegale, però tutte queste, nell'analisi di questo gruppo, risultano, come dire, ininfluenti, perché una variante leggermente più complessa di quella diffusa dai media include almeno le conseguenze economiche anche se ne ingigantisce in modo retorico le potenziali ripercussioni sul piano politico. In questo caso troviamo i soliti sospetti che vanno dai classici politicanti e via discorrendo. Fondamentalmente questo articolo parla tutto del PCC, dell'organo di governo cinese, ma fondamentalmente parla di come si produce un'epidemia. Il virus che è all'origine dell'attuale epidemia SARS-CoV-2, così come il suo predecessore SARS-CoV del 2003, l'influenza aviaria e ancora prima l'influenza suina, è germogliato dall'incrocio tra economia ed epidemiologia. Non è certo un caso che così tanti di questi virus abbiano preso il nome di animali. La diffusione delle nuove malattie tra la popolazione umana è quasi sempre il prodotto di quello che viene chiamato trasferimento zoonotico, e che è un modo tecnico per dire che queste infezioni passano dagli animali agli umani. Questo salto da una specie all'altro, salto di specie, è condizionato da fattori come la vicinanza e la regolarità del contatto, che costituiscono l'ambiente in cui la malattia è costretta a evolversi. Quando questa interfaccia tra uomo e animale cambia, si modificano anche le condizioni in cui si evolvono queste malattie. Sotto le quattro fornaci, le quattro città cinesi, quindi si trova una fornace ancora più importante, che sta alla base degli hub industriali di tutto il mondo: la pentola a pressione evolutiva costituita dall'agricoltura e dall'urbanizzazione proprio del capitalismo, per inciso. È questo il substrato ideale nel quale le epidemie nascono, si trasformano, compiono i balzi zoonotici sempre più devastanti e poi sono veicolate in modo aggressivo attraverso la popolazione umana. A ciò si aggiungono dei processi altrettanto intensi che si verificano ai margini dell'economia, in cui ceppi selvaggi vengono più di recente in contatto con le persone, spinte a incursioni agroeconomiche sempre più estese negli ecosistemi locali. Il coronavirus, nelle sue origini selvagge e nella sua improvvisa diffusione attraverso un nucleo fortemente industrializzato e urbanizzato dell'economia globale, rappresenta le due dimensioni della nostra nuova era di epidemie politiche e economiche. L'idea di base qui esposta è sviluppata in modo molto approfondito da alcuni biologi di sinistra come Robert Wallace nel libro Big Farm Make Big Flu, pubblicato nel 2016, che spiega in maniera esauriente la connessione tra il settore agroalimentare capitalistico e l'eziologia delle recenti epidemie che vanno dalla SARS all'Ebola. Queste epidemie possono essere raggruppate in due categorie: la prima trova le sue origini nel cuore della produzione agroeconomica e la seconda nel suo entroterra. Nel tracciare la diffusione di H5N2, noto anche come influenza aviaria, Wallace riassume diversi fattori chiave della geografia per quelle epidemie che hanno l'origine nel cuore della produzione. Scusate. I paesaggi rurali, ci dice Wallace, di molti dei paesi più poveri sono ora caratterizzati da attività produttive agroalimentari non regolamentate che premono contro le bidonville periurbane. La trasmissione non controllata delle aree, nelle aree vulnerabili aumenta la variazione genetica con cui l'H5N1 può sviluppare delle caratteristiche specifiche per l'uomo, diffondendosi su tre continenti ed evolvendosi rapidamente. L'H5N1 entra anche in contatto con una crescente varietà di ambienti socio-ecologici, che includono specifiche combinazioni locali di tipologia prevalente di host, di modalità di allevamento del pollame e di misure per la salute degli animali. Questa diffusione ovviamente è guidata dai circuiti globali delle merci e poi appunto delle migrazioni regolari di manodopera, che quindi disseminano il tutto nel mondo. Questo è un punto facile da chiarire, dicono loro. È presentato comunemente nella stampa tradizionale che il fatto che la globalizzazione consente la diffusione in modo molto rapido. La vera questione, tuttavia, viene prima che la circolazione migliori la resilienza di queste malattie. La logica di base del capitale permette di prendere ceppi virali precedentemente isolati o innocui e potenziarli in ambienti ipercompetitivi che favoriscono l'emergenza dei fattori specifici che causano le epidemie, come la rapidità dei cicli di vita del virus, le capacità di compiere salti zoonotici tra le specie portatrici e la capacità di far evolvere rapidamente dei nuovi vettori di trasmissione. Questi ceppi tendono a distinguersi proprio per la loro virulenza. In termini assoluti sembra che lo sviluppo di ceppi più virulenti avrebbe l'effetto opposto, poiché il fatto di uccidere l'ospite prima fornisce meno tempo al virus per diffondersi. Il comune raffreddore, ad esempio, è un buon esempio di questo principio, poiché generalmente mantiene dei livelli di intensità deboli che ne facilitano una larga propagazione nella popolazione. In alcuni ambienti funziona molto di più la logica inversa: quando un virus ha numerosi ospiti della stessa specie nelle immediate vicinanze, e specialmente quando questi ospiti possono già avere dei cicli di vita abbreviati, l'aumento della virulenza diventa un vantaggio per la sua evoluzione. Si rifà di nuovo per all'influenza aviaria, e Wallace sottolinea che gli studi hanno dimostrato l'assenza di ceppi endemici altamente patogeni nella popolazione di uccelli selvatici, fonte ultima di questi, di quasi tutti i sottotipi di influenza. All'opposto, le popolazioni domestiche raggruppate insieme in allevamenti industriali sembrano avere una relazione evidente con tali focolai per ovvi motivi. Le monoculture genetiche di animali domestici rimuovono qualsiasi forma di difesa immunitaria in grado di rallentare la trasmissione. Popolazioni più numerose e più dense favoriscono tassi di trasmissione più elevati. Queste condizioni di affollamento deprimono la risposta immunitaria. L'alto rendimento, che è lo scopo di qualsiasi produzione industriale, procura un rinnovo continuo dell'approvvigionamento di soggetti vulnerabili, il carburante per l'evoluzione della virulenza. Naturalmente, ognuna di queste caratteristiche è la conseguenza della logica della concorrenza industriale. In particolare, il rapido tasso di throughput in tali contesti ha una dimensione eminentemente biologica. Non appena gli animali industriali raggiungono la giusta massa, vengono uccisi. Le infezioni da influenza resiliente devono raggiungere rapidamente la loro soglia di trasmissione in un dato animale. Più rapidamente vengono prodotti i virus, maggiore è il danno per l'animale. Ironia della sorte, il tentativo di sopprimere questi focolai attraverso l'abbattimento di masse di operai, come nei recenti casi di peste suina africana, ne ha provocato la perdita di quasi un quarto dell'offerta mondiale di carne e maiale. E, l'articolo è molto lungo, io non lo leggerò tutto, vi consiglio di andare a leggerlo, però magari qualcos'altro ve lo posso dire, e in particolare il fatto che lui, appunto, andando ad analizzare tutte le in modo abbastanza approfondito uno storico delle epidemie, almeno nel secolo scorso, riesce a far capire in modo abbastanza preciso che intanto tutti gli stereotipi che noi abbiamo e che tendenzialmente incolpiamo una popolazione cinese per essere sudicia, zozza e con scarsissime misure igieniche, è da contestualizzare. E cioè, la Cina, nonostante la sua crescita esponenziale, è un paese che ha visto negli ultimi anni il collasso del sistema sanitario. Uno, per esempio, ha visto un'esplosione esponenziale di un'industrializzazione pesantissima, nel senso molto, molto forte, e che queste sono caratteristiche, ad esempio, che lui confronta con quelle che erano le caratteristiche delle epidemie esplose nei secoli scorsi. I secoli scorsi, dove la Cina era un paese ancora abbastanza, diciamo, non industrializzato, mentre i paesi industrializzati erano quelli europei, e difatti molte epidemie arrivano proprio dai paesi europei. Cita in particolare un'epidemia che avvenne in Gran Bretagna, dove di fatto vi fu, come dicevo prima, nella Cina vi fu un cambiamento grosso nell'utilizzo del suolo. E cioè, a un certo punto, erano gli inizi del Novecento, se non mi sbaglio, nel primo dopoguerra, l'Inghilterra vide l'espropriazione, l'allontanamento delle masse contadine dalle campagne a favore di un allevamento intensivo, soprattutto di bovini. Questo allevamento di bovini creò un mercato enorme, e costrinse appunto i contadini a spostarsi nelle città, naturalmente furono confinati negli spazi suburbani. Questi spazi suburbani avevano, intanto non vi era la presenza di un sistema sanitario pubblico, cosa che poi venne in seguito, avvenne in seguito all'epidemia, e soprattutto le norme igieniche erano, insomma, diciamo, sì, lo stato igienico, igienico-sanitario, era veramente pessimo. E quindi anche lì, dai macelli nelle periferie delle grandi città inglesi si sviluppò questo virus che effettuò un salto di specie, arrivò agli uomini e causò disastri, probabilmente più morti della prima guerra mondiale. Quindi loro cercano di dimostrare che fondamentalmente le epidemie sono costituite da sì un virus, ma anche da delle determinate condizioni sociali. Le crisi sanitarie sono cicliche e caotiche, sono rese più probabili però da fattori strutturali della produzione capitalistica e della vita proletaria, fondamentalmente. Per questo si parla di lotta di classe microbiologiche. Questo è successo naturalmente anche per il Covid-19 e ne ripercorre un po' la storia del sistema sanitario cinese. Il paese ultracapitalista, dove i servizi, gli investimenti nei servizi sanitari dell'istruzione è molto molto bassa. Soprattutto per gli spostamenti interni. In Cina tra gli anni 50 e gli anni 80 vi fu un notevole progresso sanitario e farmaceutico, poi invece fu arrivata la privatizzazione e quindi naturalmente questo sistema è andato a collassare. Inoltre hanno il grosso problema dei migranti interni. I migranti interni non hanno un accesso alla sanità di base, perché la sanità di base in Cina è ristretta all'area di residenza. Se te ti sposti all'interno della Cina non hai più diritto all'assistenza sanitaria. Poi, dagli anni 90, il sistema sanitario è diventato una sorta di assistenza integrata, dove, come in Italia, come sta diventando in Italia oggi, fra l'altro, e in buona parte d'Europa, e quindi un'assistenza privata controllata dallo Stato, esattamente come sta succedendo in Italia. Però mancavano i fondi e le aziende spesso non pagavano questo sistema sanitario integrativo. E quindi niente, esattamente come succede adesso. Loro arrivarono appunto a finanziare poi un sistema pensionistico e per i lavori autonomi. Però questa cosa qua di fatto anch'essa era un sistema che ha permesso l'accesso alle cure per pochissimi. Infatti, nonostante che non si sappia niente, perché la comunicazione, l'informazione in Cina è controllata rigidamente dallo Stato, in Cina si hanno tantissime rivolte in generale, ma in particolare per questa cosa qua. Addirittura venivano registrate da degli attivisti, che poi naturalmente sono stati arrestati, venivano registrate un sacco di aggressioni al personale medico, soprattutto da parte di familiari. Ma tornando poi sul consumo del suolo, è sempre più frequente il fenomeno per il quale vi è una ricerca e un commercio di animali selvaggi per l'industria agroalimentare oppure mediche, a scopo di ricerca, non solo. Qui, ad esempio, fa il caso dell'Ebola, bene, l'Ebola che è esplosa in Africa, laddove si era visto che a un certo punto una grossa parte delle foreste, va bene, e di terre erano state vendute alle multinazionali. Queste multinazionali hanno iniziato a disboscare fondamentalmente e quindi a erodere il suolo. Questo ha fatto sì che le popolazioni indigene che abitavano in quelle che vivevano e vivevano in e di quei territori si sono trovate costrette a spostarsi ancora più nel profondo della foresta. Questo ha fatto sì che naturalmente per la sussistenza abbiano iniziato a cacciare e a mangiare fondamentalmente selvaggina che magari allora era ancora incontaminata. Questo ha favorito il salto di specie e poi la diffusione dell'Ebola. Non solo, ma quelle popolazioni che a un certo punto si sono trovate a dover cacciare questo fa l'esempio addirittura del Guatemala, addirittura, perché è un po' una cosa che succede un po' in tutto il mondo globalizzato, no? Quando gli apparati statali decidono di svendere i territori alle grandi multinazionali per l'estrazione di una qualsiasi risorsa, c'è sempre qualcuno che ci rimette. E quindi magari quelle popolazioni indigene che si sono trovate cacciate dalle multinazionali poi dopo si sono viste anche accusate di bracconaggio e magari anche di taglialegna abusivi, quando in verità poi i loro territori erano stati completamente distrutti e rubati. Comunque, fondamentalmente finisce questo articolo per puntualizzare che il blocco nelle città, nelle grandi fornaci, va bene, nei grandi focolai di questa epidemia è arrivato il 24 gennaio in Cina, quindi ben oltre un mese dopo che era stato l'individuazione del ceppo di Covid. Il blocco di Hubei, si parla del blocco naturalmente industriale, poi si è evoluta, abbiamo visto che ad oggi la Cina dichiara che non vi sono più contagi. Però, ripeto, puntualizziamo, è stata bloccata totalmente la produzione, esclusi il cibo fondamentalmente. Quindi, ne deducono loro che fondamentalmente le epidemie derivano da un'incapacità istituzionale di gestione del sistema capitalistico e che tutte le cose messe in atto, tutte le misure messe in atto non sono altro che una grande prova generale per un'insurrezione, per fronteggiare un'insurrezione di massa. Stacco minimo e poi si parte con un contributo di Gianluca Garetti di Medicina Democratica, che fa un'altra puntualizzazione su questo tema, sulla vicinanza tra la correlazione, diciamo, tra la diffusione di epidemie e l'inquinamento, di conseguenza l'industrializzazione, di conseguenza l'industria capitalista. Gianluca Garetti. Di Medicina Democratica, medico psicoterapeuta, che recentemente ha scritto un articolo su quelle che ritiene le cause, o almeno parte delle cause, questa emergenza, di questa epidemia, di questa pandemia. Intanto, se ci puoi esporre, secondo te, da dove arriva questo virus, quindi principalmente, se ci spieghi bene la questione del salto di specie e anche della correlazione appunto con quello che te individui come uno dei fattori, cioè l'inquinamento. Sì, grazie. Sì, il tema è che diciamo, questo virus sembra, no, che nasca in quel mercato cinese di Wuhan, quel mercato dove ci sono animali selvatici che vengono venduti, sembra perché

aiming few. I'm gonna walk all over you. Cause madness, madness, I call it gladness. But if this is madness, man, I know I'm filled with gladness. It's gonna be rougher, it's gonna be tougher, and I won't be the one who's gonna suffer. Oh no, I won't be the one. Direi che la Toscana è un po' la linea Maginot di questo contagio, perché è la prima regione, scendendo dal nord verso sud, ad avere numeri contenuti. Spero davvero che la Toscana riesca a reggere questo contenimento. Noi tutti i sindaci ci stiamo sentendo e vogliamo dare un'ulteriore stretta. Gennaio 1931. Si inizia la costruzione della linea Maginot, una delle più grandiose e inutili spese belliche di tutti i tempi. La linea Maginot, che i soldati ribattezzeranno subito le trou, il buco, e le béton, il cemento, è un grandioso bunker che si estende lungo il confine franco-tedesco per 400 chilometri, fino all'incrocio tra i confini di Francia, Lussemburgo e Belgio. È una specie di muraglia cinese, composta di fortini sotterranei, case matte all'aperto e una serie di gallerie sovrapposte ampie come la metropolitana di Parigi, lunghe chilometri e collegate tra loro da treni elettrici. La linea Maginot ha depositi per viveri e munizioni, alloggi per soldati e ufficiali e costituisce un'opera in cemento armato che rappresenta per la Francia uno dei più colossali errori bellici della sua storia. Già dal 1929 i generali francesi, memori dell'invasione tedesca subita durante il conflitto del 14-18, avevano progettato un enorme vallo con potenti artiglierie per arginare uno straripamento di forze armate tedesche in territorio francese. La progettazione e la messa in opera dei lavori vengono affidate all'ingegner Maginot. Nel frattempo, per l'avvento di Hitler al potere, la Germania, con la politica estera dello spazio vitale, rivendica la Ruhr. E la primavera del 40, aggirando la Maginot, le divisioni corazzate tedesche si aprono un varco nella Somme e sfondano in tre punti il vallo fortificato. La Francia è costretta alla resa. Nel 1972 la Maginot verrà messa all'asta. Finiranno con acquistarla i tedeschi per destinarla a un immenso complesso alberghiero, ottimo in caso di attacco atomico, con tendine e vasi di gerani alle feritoie. Beh, dunque, direi che su una cosa ci siamo: la Toscana in Firenze. Ora, la cazzata della linea Maginot è evidente a tutti, però le tendine e i gerani probabilmente quelli corrispondono esattamente al decoro che intendeva Nardella. E che dire, io non so più come fare a filtrare le cazzate che dice il sindaco. Quantomeno ci fa sorridere, ecco. C'è, ci scrivono un ascoltatore e un'ascoltatrice, si scrive e ci dice: quindi mentre a noi Mentre a noi ci chiedono di andare a lavorare, lo stesso il consiglio comunale sta a casa, punto interrogativo. Evidentemente il consiglio comunale non è considerato un'attività essenziale e in effetti. Beh, dunque io avevo preparato ancora un sacco di cose da dire, però sono andato un po' lungo e sì, sono andato decisamente lungo. Quello che posso fare è rimandarvi per approfondire la questione insomma, stavamo parlando della continuità nelle politiche cittadine, insomma, dell'amministrazione cittadina fiorentina, ma non solo. Per approfondire un po' questo ci sono degli articoli che sono comparsi su JAP, nome, insomma, scritti da Wolf Bukowski che parlano proprio di questi, magari potrei, vi metterò il link nel blog per approfondire. Si chiama fondamentalmente i parchi, luoghi di degrado e contagio, ma sono due capitoli e fa un po' il parallelismo tra quello, tra la lotta al degrado e la lotta al coronavirus, così come viene messa in atto ai giorni di nostri. Molto interessante, molto approfondito, fa anche tutto un excursus sulle varie ordinanze emanate non solo a Firenze. Ma anche un po' in tutta Italia si cita De Luca con le sue incredibili dichiarazioni, come sempre oserei dire, incredibili, però sicuramente in una situazione di tale emergenza balzano ancora di più all'occhio. Tanti gli articoli che avrei da citare, ci sono un paio di approfondimenti di Simone Pieranni, che è un giornalista che scrive anche sul Manifesto, ma è un esperto di Cina e ha pubblicato su China Files in particolare due articoli che io volevo leggere o quantomeno citare. Uno parla della prima emergenza sanitaria nell'epoca dell'intelligenza artificiale, va nel dettaglio di quello che è stato messo in campo dalla Cina per il controllo delle persone. Il secondo si intitola invece sempre su China Files di Simone Pieranni, Cina e coronavirus, l'anima taoista e l'abito confuciano, mette un po' sul piatto le due caratteristiche della popolazione cinese. Beh, ve lo accenno. Ve lo accenno, e cerca un po' anche di metterlo in confronto con invece il raziocinio tipico degli stati occidentali. Dice che perché sì, si dice che i cinesi abbiano un'anima taoista quasi sempre sottovalutata in Occidente e un abito confuciano. L'anima la mostrano spesso nella determinazione a non obbedire, cioè alla legittima aspirazione alla ribellione. Alla revoca del mandato, la storia cinese è piuttosto ricca di rivolte, il vestito invece è il riconoscimento di un sistema gerarchico dalla famiglia allo Stato, in grado di governare non solo gli uomini, ma la natura stessa. E su questo ci fa tutto un ragionamento sul fatto che il Partito Comunista Cinese, il PCC, sia un po' l'ago della bilancia fra queste cose qua, e quindi nelle sue azioni cerca di modellare le sue azioni per sì, fronteggiare le emergenze e allo stesso tempo cercare di non creare, di non far creare rivoluzioni o insomma, casini all'interno del suo paese. Altre cose che, vabbè, c'era tutta una serie di articoli proprio sulle ordinanze. Che ne sono venute fuori, ma non sto ancora a tediarvi, volevo farvi sentire un piccolo contributo preso da Filo Sottile, che fra l'altro non utilizza il Creative Commons e quindi è anche